prima di entrare nei sogni. Credevo proprio più di trovare te che cercavo. Come farfalla se volava su me, ascolto il fumo tra i miei occhi e dammi aria per sempre solo tu, oh yeah. Ci sei sempre solo tu, oh yeah. Yo que tú no puedes.